Ayo, Berserk Clan, in ordine di apparizione è il chimico Shyness e Skanda alias Guido il Largo. Direttamente dalla città depressa, Grosseto, Depression City. E questo è un pezzo per parlarvene, ma lo sai, yo. Se la notte è fredda, la scalda chi l'aspetta, ma gela chi c'ha fretta. Trasporto buser fit in ogni posto che io vago, ma non pago la caparra, pago la mia testa ad ogni pezzo sulla barra. Me la vivo scialla, habla, bambulenar. Consumo il mio contante più veloce, mentre se le banconote sono tante, tanto da passare da barbona benestante, da cristiana protestante, con in testa un sogno troppo grande. Vesto pantaloni a tuoi prodotti in vasta scala, non puoi niente nella bisca, la bisca para. Tu para, sti colpi che la vita è troppo cara, vi lascia secco come nel deserto del Sahara. Adesso guarda, questo è tutto, uomo, guarda e impara. Guarda e impara, uomo, ascolta bene. Yo. Benvenuti, benvenuti a Depression City, città di miti falliti, violenti, malati, di sadattati e dissociati, di che ti pensavi che fossero tutti strani. Benvenuti, benvenuti a Depression City, città di miti falliti, violenti, malati, di sadattati e dissociati, di che ti pensavi che fossero tutti sani, sani. Benvenuti, gentleman e monsieur, quale mademoiselle girano con malattie nel pensiero in testa, i pensieri nei testi da chiamarmi Armanesse. Resista a questo stress, tenga bada la mia bestia. Benvenuti nella patria affettiva, dove chi ti abbraccia nel 99% dei casi nasconde l'invidia. Per parlare non corre reggersi lo stomaco, altrimenti non digerite parole ma una mina. Questa è la città della morfina, per gli zombie il paradiso, il Raccoon City degli F è lo zoo dei falliti, da chiamarli Christian ma senza gli aghi. Qua man, tutti codardi ma pronti a puntare i diti, tutti zitti sei di fronte ma nel buttano nel culo sei dietro. La città non è malata ma voglio una pena di morte violenta, per chi grida infame poi ritorce la sentenza. Benvenuti, benvenuti a Depression City, città di miti falliti, violenti, malati, di sadattati e dissociati, di che ti pensavi che fossero tutti sani. Benvenuti, benvenuti a Depression City, città di miti falliti, violenti, malati, di sadattati e dissociati, di che ti pensavi che fossero tutti sani, sani. Questo posto che mi porta a fare schifo, oppure sono io il fastidio dello sbirro gay passivo. Qua conta solo il calcio, poi la moda, soldi e droga. Ragazzetto quindicenne, è roba nuova, il suono è scarso. Io che non scaccio per restare a galla al mondo, preferisco avere le mie idee e portarmele sul fondo. Tanto il bello in fondo è solamente questo, a Grosseto sei qualcuno, sei soldino un gorilletto. Psicofarmaci forniti a scuola dal bidello, creano zombie senza scrupoli, affamati di cervello, distruttori di buonsenso. Per colpa di cazzi, fautori di scazzi, risolti a colpi di coltello. Non è un'idea che ho fissa in mente, vivo tra la gente che sta indifferente. Erma crea un suono che potenzia i berserk, Grosseto è un posto vuoto posto sul cuore della gente. Benvenuti, benvenuti a Depression City, città di miti falliti, violenti, malati e disadattati e dissociati, di che ti pensavi che fossero tutti sani. Benvenuti, benvenuti a Depression City, città di miti falliti, violenti.